Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il comandante del campo dà ordini perentori. Chi conosce il tedesco faccia un passo avanti, serve un interprete. Nessuno si muove. I suoi amici però prendono mio padre di peso e lo spingono in avanti. Cominciò così la sua improvvisata attività di interprete. Sono Roberto e vivo a Marostica, nel Veneto, con mia moglie Alessandra. Faccio l'architetto, sono nonno di due stupendi bimbi, Giovanni ed Ettore. Amo lo sci e attendo con impazienza l'arrivo della prima neve. Lo avete sentito poco fa in diretta al GR, la Liguria è ancora in una situazione molto molto complicata, leggo adesso che sta arrivando l'esercito a Chiavari, ci sono due dispersi. Questa settimana la radio, quasi casualmente, per uno strano scherzo del destino, sta cercando di ricordare quello che è successo un mese fa. Era una settimana dedicata a, un po' a fare i calcoli e anche a fare la conta di come stava Genova e la Liguria dopo l'alluvione di un mese fa. In realtà, ahimè, è molto attuale in realtà quello che sta succedendo e la radio quindi continua a stare vicino a modo suo, ovviamente, raccontando le storie delle persone che hanno vissuto quell'alluvione. Domani tocca a noi raccontare qualche piccolo pezzo di quello che è successo e di quello che è rimasto. A questo punto però io vi invito, se avete voglia, se avete in mano uno smartphone, se siete al computer e potete guardare fuori dalla finestra e vedere quello che succede, a raccontarci attraverso il nostro sito, perdonatemi, il nostro indirizzo mail. Voi siete qui @radio24.it, ma anche attraverso il nostro profilo Facebook, che è Voi siete qui Radio 24, e raccontarci che cosa, se avete perso qualcosa, che pezzo della vostra vita avete perso. Vale veramente tutto: un garage, un'automobile, una bicicletta, un pezzo della vostra professione, un ricordo dei vostri anni, quello che in qualche modo vi è stato portato via dall'acqua. Voi siete qui @radio24.it, oppure Voi siete qui Radio 24, il profilo Facebook. Bastano davvero due righe, 5, 10 o una piccola storia, e domani noi a modo nostro cerchiamo, domani, perdonatemi, giovedì, noi a modo nostro cerchiamo di ricordarlo. Sono le 16:10 minuti in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, fuori anche a Milano continua a piovere e noi facciamo quello che facciamo tutti i giorni, raccontiamo delle storie. A questo proposito, a proposito di storie che noi raccontiamo e che raccogliamo tutti i giorni, dal momento che il 29 di novembre, che è un sabato, noi saremo straordinariamente perché il sabato di solito non siamo in onda, sono in onda i diari, ma non Voi siete qui. Noi non saremo in onda infatti il 29 di novembre, ma saremo dal vivo a fare un piccolo live alla fiera degli agenti di commercio qui alla fiera di Milano. A questo proposito, se siete degli agenti di commercio, se siete in automobile in questo momento, se state andando dal cliente, se siete appena tornati, avete scambiato quattro parole con lui, vi è successo qualcosa stamattina, vi è successo qualcosa negli ultimi 10 anni, qualcosa che raccontate ai vostri familiari, sai cosa è successo oggi mentre ero in macchina, ho incontrato sto tizio, non hai idea, e avete voglia, se siete agenti di commercio ovviamente, avete voglia di mandarci poche righe, una pagina, una paginetta di storia che racconti qualcosa di voi in quanto uomo o donna sempre in viaggio. Voi siete qui @radio24.it e noi il 29 di novembre ci facciamo una puntata, ci facciamo più che una puntata, un piccolo live da agenti.it, il salone la fiera degli agenti di commercio. Voi siete qui @radio24.it. Ma veniamo alla storia di oggi. Oggi raccontiamo una storia come ogni tanto accade, la storia di Roberto. Tra l'altro Roberto, visto che si presenta più che se stesso, presenta il suo babbo, perché è la storia di suo papà Ernesto, che è scritto, lo dico preventivamente, poi glielo chiederemo più tardi al telefono, è scritto Xausa, io credo che si dica Xausa o Xausa, ma più tardi lo chiederemo a lui. Vi dicevo, Roberto fa una cosa che è capitata spesso, cioè racconta la storia di un suo familiare, in questo caso di suo padre, in alcuni casi succede con i nonni, perché quelle storie lì, le storie che sono successe ai nostri parenti, che hanno vissuto momenti di guerra, in questo caso di prigionia, e che le hanno portate a casa e le hanno condivise, le hanno raccontate, diventano un pochettino anche la nostra storia. Quindi questa è la storia del papà di Roberto, ma è un po' anche la sua. Ernesto Xausa, mio padre, vicentino di Mason, era partito per l'isola di Rodi, dove comandava da tenente una batteria di mortai a difesa della baia di Trianda. Praticamente una vacanza vissuta nel clima del film mediterraneo fino all'8 settembre 1943. La battaglia di tre giorni a Rodi, la resa ai tedeschi, il carro bestiame che attraversando l'Europa porta questi ufficiali prima in Polonia e poi all'avanzata dell'esercito russo in Germania. Campo di concentramento di Sandbostel. Papà aveva concluso tutti gli esami della laurea in lingue straniere alla Ca' Foscari di Venezia. Era formato in francese, ma conosceva bene anche l'inglese e il tedesco. Ai prigionieri allineati all'aperto, il comandante del campo, un grande ferito della campagna di Russia, privo di un occhio e senza una gamba, ma con il fedele cane lupo sempre al fianco, diede ordini perentori e precisi. Chi conosce il tedesco faccia un passo avanti, serve un interprete. Un alto atesino in divisa tedesca traduce l'ordine agli italiani. Nessuno si muove. Ernesto tantomeno, ma i suoi amici lo prendono, quasi di peso, e lo spingono in avanti. Ecco, così cominciò la sua improvvisata attività di interprete tra i tedeschi e i commilitoni italiani. Il periodo in cui ha vissuto a Sandbostel è stato un periodo di un anno circa. Lui faceva un'attività di interprete. In realtà i militari dell'IMI, prigionieri in questo grande campo, non facevano nulla, erano abbandonati a loro stessi. In quel momento chi viveva, chi era lì in questi campi era assolutamente all'oscuro di tutta questa situazione degli stermini, di quello che veniva fuori da quel campo. Anche i tedeschi non avevano grandi risorse nel campo, ma una modesta infermeria militare era comandata dal dottor Bernard Hartung ed il giovane Ernesto faceva la spola dalle baracche dormitorio alla postazione medica. Gli italiani erano forse 6.000, ma il campo conteneva quasi 55.000 prigionieri di tutte le nazioni e di tutte le etnie. Il dottor Hartung prese forse in simpatia mio padre e tra loro nacquero grandi chiacchierate sulla condizione di vita, sulla guerra e sulla religione. Hartung era fortemente cattolico. Raccontava papà che dietro l'infermeria il dottore aveva uno sgabuzzino con una mappa dell'Europa sulla quale spostava le bandierine degli eserciti in relazione alle notizie che arrivavano dal fronte. Ernesto, gli americani ora sono qua. Ieri erano laggiù. Vedrai. Tra poco ci liberano tutti. Era un tedesco fieramente anti-hitleriano. Non sapeva ancora degli stermini, ma sapeva delle atrocità delle famigerate SS. Papà raccontava spesso a tutti noi figli, e anche noi chiedavamo a lui proprio i dettagli, le storie, le cose. Lui era bravissimo nel raccontarci queste vicende. A differenza forse di altri papà che non raccontavano molto, perché qualcuno proprio ha avuto un rigetto di tutto questo. Il dottor Hartung cercava di rubacchiare qualche farmaco riservato ai militari tedeschi e mio padre, nascoste le medicine nei risvolti della giacca o nella fodera dei pantaloni, li portava in giro per le baracche per qualche caso di dissenteria o di piaghe. L'amicizia ed il rispetto reciproco si rafforzò così tanto che immediatamente dopo la liberazione da parte degli anglo-americani, Hartung venne arrestato perché ufficiale della Wehrmacht. Ed una delegazione di prigionieri interforze con mio padre a capo andò a perorare la sua causa presso il comando alleato. Il colonnello americano, in capo a 2 ore, liberò il dottor Hartung e lo insediò immediatamente a capo dell'ospedale civile di Sandbostel. Io ero un ragazzo negli anni 60 e 70, ma ricordo quella bella testa di anziano dai capelli bianchi che veniva a Marostica a passare qualche giorno con papà, parlando in tedesco nei caldi pomeriggi estivi, sorseggiando un prosecco. One more box of eggs, say the man to the bartender. One more box of eggs, say the man, I won't surrender. Si riconosce subito la location estiva nella foto che ci manda Roberto, che trovate sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina, per la luce bassa, probabilmente al tramonto, per la camicia bianca molto leggera e anche per delle rocce chiare che potrebbero essere, boh, chissà dove, forse in Puglia. Pronto Roberto, buongiorno. Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? E ben trovato, bene, benissimo, grazie. Ben trovato anche tu. La storia. Dove sei, nella foto che ci hai mandato? Nella foto, quella è una foto fatta in un'isola, l'isola di Silba, verso sotto l'Istria. Ah, ok, Croazia. Sì, esatto. Tra l'altro, io volevo chiederlo a te, invece Marco da Vicenza, che è un ascoltatore carissimo che ci segue molto strenuamente e ci scrive sempre, mi dice: Xausa è un cognome di origine longobarda, si legge Xausa, come la leggi la X? Mona. Giustamente, ringrazio Marco per la delucidazione e non so perché allora, mi era venuto Xausa, invece è Xausa proprio con la X. È Xausa, ma ti dico di più, è un nome cimbro. È un nome cimbro, sì, un nome cimbro che è molto diffuso anche nella nostra zona, è un nome che parte dall'altopiano di Asiago. E ha un significato, Roberto? Ma il significato non te lo so dire, però c'è stata questa immigrazione cimbra e quindi da qui nascono tanti nomi con le K, con l'I lungo e con le X di quella zona. Quindi c'è del cimbro in te, Roberto? C'è del cimbro, esattamente. Mi ricordi che cosa fai esattamente nella vita? Io sono architetto. Ok, quindi sono architetto e ho lo studio Bassano, molto vicino alla mia città dove abito, a Marostica. Interni, esterni, che cosa fai? Quello che capita? Soprattutto restauri, ristrutturazioni, insomma, c'è molto da fare su questo campo. Ma sì. Scusami, poi andiamo alla storia, però mi incuriosisce questa cosa, sarà che ho un architetto in famiglia e quindi insomma, più o meno conosco la situazione, perché ci sono le grandi archistar, no, che ormai sono appunto, lo dice la parola, delle star, fanno dei palazzi che entrano nella storia. Ma com'è la vita dell'architetto oggi? È più complicata? È un momento difficile anche per voi? Beh, è un momento molto difficile, soprattutto per gli architetti giovani, per gli architetti che operano da poco tempo. Sai, io ormai ho una certa età e insomma qualcosa si riesce sempre a fare, però è un momento molto difficile. E in questa difficoltà, non ultimo, c'è anche un apparato, chiamiamolo così, amministrativo, burocratico, che non è da poco. Quello ci sta sempre vicinissimo e ci rende la vita sempre molto, molto più facile, ma per questo arriva più tardi Oscar Giannino a smadonnare contro tutti. Noi quindi andiamo avanti con la nostra storia, la storia di Ernesto. Ernesto, sì. Quanto te l'ha raccontata questa storia? Forse ce l'avrà detta a noi figli, io credo 100 volte, guarda, e questa è una delle 1000 storie che lui racconta. Lui è stato estremamente positivo nel raccontarci tutto, tutti quanti i dettagli, lo faceva anche un po', come dire, a secondo della nostra età. Quando eravamo bimbi piccoli ci raccontava certe cose, quando eravamo adulti ci raccontava altre. Certo. Ecco. E tu questo, quando dici che ti ricordi benissimo questo signore che a Marostica si beveva un prosecchino con tuo padre, hai avuto modo di parlarci anche con il dottor Arthur? Ma come no, certo che sì, un signore molto alto, capelli bianchi. Era un medico anche importante in Germania, nella città di Celle. Selle, credo si dica, Selle nel nord, ecco, e veniva giù d'estate qualche volta, insomma è stato anche nostro ospite a casa. Sì. Guarda, sono arrivate diverse storie, soprattutto quest'estate quando chiedevamo storie legate alla guerra, sono arrivate diverse storie di amicizie nate in guerra, ovviamente tra commilitoni, e poche però, anche se sappiamo che ce ne sono di amicizie tra militari di etnie diverse e e di paesi diversi, quindi ti ringrazio per averci mandato questa che racconta di tuo padre del medico tedesco. Roberto, in bocca al lupo per tutto e grazie mille. Grazie a te, buona giornata. A presto, anche a te. Ciao, ciao, ciao. Perché in guerra a volte può succedere che quelli che prima erano amici diventano nemici e che quelli che prima erano nemici diventano amici. Di sicuro questo è successo in Italia dopo l'8 settembre del 43. Da quel giorno abbiamo studiato che i tedeschi, che fino a quel momento erano alleati, diventano nemici, e gli inglesi e gli americani, che fino a quel momento erano nemici, diventano alleati. Ma questo cambiamento è stato tanto rapido quanto complicato. La sera dell'annuncio dell'armistizio, il re e Badoglio fuggono da Roma prima a Pescara e poi a Brindisi, lasciando all'esercito poche informazioni su che cosa fare. Ancora più abbandonati a se stessi sono i fronti lontani come Rodi. Là i generali devono prendere la decisione su conquistare, basandosi più sul loro istinto che su ordini chiari. Quello che fino a quel momento è considerato un avamposto privilegiato diventa in pochi giorni l'epicentro di scontri cruenti. Questo anche perché gli alleati anglo-americani considerano i confini del dodecaneso italiano un sacrificio necessario. I tedeschi attaccano con forza e prendono Rodi in 3 giorni. A Lero e Cefalonia i soldati italiani tentano di resistere, ma restano senza munizioni. Rimangono sul campo decine di migliaia di caduti, spesso sepolti da quegli stessi greci che Mussolini, solo pochi anni prima, aveva dichiarato di volere spezzare le reni. Dopo l'8 settembre più di 600.000 italiani vennero deportati nei campi di concentramento tedeschi. Si crearono le repubbliche partigiane e la Repubblica di Salò. C'erano fascisti che combattevano contro il fascismo e antifascisti con la tessera del partito fascista. Ma anche sul fronte tedesco la realtà delle cose è stata più complessa di come abbiamo imparato a scuola. Il racconto sul dottore che nasconde i medicinali per curare i deportati contrasta con il luogo comune che il nazismo non ebbe oppositori. Invece no, anche nella Germania nazista qualcuno si è ribellato. Otto e Anna erano una coppia di persone normali. Lui era capofficina di una fabbrica metallurgica e lei era una sarta. Erano stati fedeli sostenitori del nazismo fino a quando nel 1940 la postina gli consegnò una lettera dove c'era scritto che il loro unico figlio era morto da eroe per il Führer. E questo è il motivo scatenante per cui quel giorno quei due decisero di ribellarsi e di farlo usando una penna. Scrivono delle cartoline anonime contro il regime e le diffondono in tutta Berlino. In qualche settimana scoprono altre motivazioni per farlo, perché al dolore per la perdita del figlio si aggiunge l'offesa al loro senso di giustizia. Tutte le sere immaginano le cartoline che passano di mano in mano. Sono convinti che sarà l'inizio della fine del nazismo e sono convinti di essere loro due ad avere acceso quella scintilla. La paura però era tanta e le cartoline in realtà non si diffusero, anzi, vennero consegnate subito alla polizia per trovarne gli autori. Ma il colossale meccanismo di repressione nazista riuscì a catturarli solo 2 anni dopo. Dopo 2 anni di caccia all'uomo e dopo 2 anni di quelle frasi sgrammaticate, piene di errori e di espressioni goffe, scritte su quelle cartoline. Arrivarono perfino a rovinare i sonni di Himmler e di Hitler in persona. Questa storia è vera, è stata l'ispirazione di Ognuno muore solo, di Hans Fallada, quello che Primo Levi ha definito il più importante romanzo sulla resistenza tedesca al nazismo. Un romanzo che racconta che anche allora è esistita una Germania migliore, che vale la pena credere in qualcosa, anche se l'esito sarà comunque una sconfitta. Un romanzo che, pur essendo intriso di distruzione e di morte, come dice l'autore, è dedicato alla vita indomabile che trionfa sempre, di nuovo sulla vergogna e sulle lacrime, sulla miseria e sulla morte. E alla fine, dalla storia di Roberto, ho capito che, primo, conoscere le lingue fa sempre comodo. Secondo, la Seconda Guerra Mondiale è arrivata anche nelle isole greche. Terzo, tra vinti e vincitori, qualche volta il confine è proprio sottilissimo. Quarto, un gesto contro l'ingiustizia non è mai inutile, anche se sono in pochi a raccoglierlo. E quinto, spesso le singole persone valgono di più del mondo che hanno intorno. We'll be alone again. fatto due appelli in apertura al programma e sono arrivati prontamente due messaggi al 349-238-6666. Uno è quello di un agente di commercio, Lorenzo da Gorgonzola, che dice: esco da un cliente ora a Treviso, questa sera dormirò a Mestre, faccio questo lavoro da 12 anni, questa sera ti scrivo la mia storia. Io l'aspetto, Lorenzo, voi siete qui, @radio24.it. E poi a proposito invece dei Liguri che stanno rivivendo a un mese di distanza una cosa simile a quella che è successa un mese fa, l'alluvione di un mese fa, arriva un messaggio di Paolo che in realtà parla di 20 anni fa, ma parla di una cosa che comunque gli è rimasta addosso o gli è andata via invece. Paolo da Bergamo: 20 anni fa il fiume Serio ha portato via un piccolo capannone vicino a casa, era quasi vuoto tranne che per una vecchia macchina da cucire, unico ricordo della bisnonna, era perfetta. Se appunto state vivendo ancora quei tormenti a Genova e in Liguria, avete voglia di raccontarci una piccola storia, inviatela. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Miriam Lucchetti, grazie soprattutto a Roberto. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Giuseppe, vivo a Ghedi in provincia di Brescia e la storia di domani è la mia. Parla di una follia ciclistica giovanile con un lieto fine. Questa è la mia storia e io sono qui.